America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo il Presidente del Consiglio Mario Monti in visita in America, partecipa a un consesso molto privato, molto discreto, a Sun Valley, fra le montagne dell'Idaho. Si riunisce ogni anno un gruppo formato dai grandi protagonisti dell'high tech. Quando dico grandi intendo dire Mark Zuckerberg di Facebook, Bill Gates, protagonisti dei media, la famiglia Sulberger del New York Times, Jeff Bezos di Amazon.com, insomma tutto il gota del high tech si riunisce in questo minuscolo paesino per qualche giorno. È un'opportunità secondo me straordinaria, perché da una parte il nostro Presidente del Consiglio potrà spiegare che cosa ha fatto l'Europa a un pubblico che ha una straordinaria influenza sull'opinione pubblica mondiale, dall'altra potrà ascoltare quali sono le nuove frontiere della tecnologia, e direi che tutto sommato arriva un messaggio rassicurante, non solo austerità ma anche futuro, qualche idea probabilmente per digitalizzare il paese e per guardare in avanti, per essere pronti a far parte della globalizzazione e a ritrovare le strade della crescita. Però Monti parlerà oggi, avrà un'intervista con Charlie Rose, un grande conduttore televisivo americano, un'intervista privata, perché di questo non si saprà nulla, ma di questo preferisco parlarvi magari poi nei prossimi giorni, magari lunedì, quando sarà possibile fare un bilancio di questo lungo weekend del nostro Presidente del Consiglio. Intanto, restiamo nella pagina culturale, perché vedrete, vorrei dedicarmi a qualcos'altro che ha molto a che fare con la cultura nel senso più lato del termine. Where are your parents, little man? Hey! Make a sign! Make a sign, mate! Beh, questa che avete ascoltato è una delle scene più importanti, la scena centrale del film Hugo, lo ricorderete, la storia di questo bambino che si perde negli ingranaggi di questo straordinario orologio nella stazione di Parigi. E perché vi parlo di Hugo? Perché Hugo ha portato un premio Oscar a Dante Ferretti, e Dante Ferretti, grandissimo scenografo italiano, ormai al suo terzo premio Oscar. E vi parlo di questo perché mi è capitato di vedere qui a New York proprio Dante Ferretti in una veste scenografica direi un po' diversa da quella alla quale siamo abituati, cioè nel contesto di grandi film, ma ha deciso Ferretti di seguire una tradizione che ha avviato ormai da qualche tempo e di disegnare gli interni di un caffè, bar, ristorante, salumeria che si aprirà fra poco, ma che è stato inaugurato proprio l'altra sera, su Madison Avenue, che è un po' la via Monte Napoleone di New York. Ecco, mi ha colpito questa cosa, perché poi sono andato a vederlo, questo locale, e ha queste pareti rosso fuoco, una tematica da antica Roma, insomma è abbastanza spettacolare e conferma che insomma un po' l'Italia, non soltanto nella moda ma anche nella gastronomia, sta cominciando ad affermarsi su Madison Avenue, perché poco più su c'è il Sant'Ambrose, che sarà forse un concorrente di questo nuovo locale, la Salumeria Rosi. Ho con me ai microfoni di America 24 Marco Rosi, che è l'amministratore delegato presidente di Parmacotto, che è la grande azienda produttrice di salumi di Parma, che controlla questi ristoranti. Dico questi perché a New York ce n'è già un altro, ce n'è un altro ancora a Parigi. Eccoci. Rosi, buongiorno. Buongiorno. Beh, insomma, lei continua ad allargare a macchia d'olio questa sua presenza di salumerie, caffè, ristoranti, col marchio Rosi naturalmente in questo caso. Salumeria Rosi Parmacotto si chiama, questa è la definizione finale di questo concept che abbiamo messo in pista 4 anni fa proprio a New York, in Amsterdam Avenue, e che ha proseguito poi a Parigi e adesso qua a Madison, dove si corona lo dico con orgoglio, un grande sogno. Ecco, c'è una cosa che mi colpisce in questo vostro esperimento, perché Madison Avenue, voglio dire, è costellata da negozi della moda italiani. Allora, qui la mia impressione, vedendo questo vostro ristorante, è che ci sia un tentativo, mi corregga se sbaglio, ma di creare il concept che abbiamo nella moda di avere il flag store, cioè il negozio bandiera che poi fa da contenitore del marchio e di usare la stessa strategia che è stata usata dalla moda applicata al settore alimentare. Mi sbaglio o sto dicendo qualche cosa di giusto? È esattamente così, questo è il nostro obiettivo, anche perché va detto che la moda ha tracciato una strada straordinaria per il made in Italy dell'abbigliamento. Noi crediamo che l'alimentare possa assolutamente prendere questo solco e portarlo addirittura più avanti, tenuto conto che lo stile alimentare italiano è effettivamente oggi quello più in voga nel mondo, quindi i nostri negozi bandiera sono sicuramente un segnale che la strada che stiamo percorrendo è quella e che vogliamo andare nella direzione dei negozi monomarca. Ecco, ma veniamo però un momento al business model, perché la moda usa i negozi bandiera per affermare un'immagine, ma poi per vendere ai grandi distributori i propri prodotti attorno all'America, insomma. Ecco, voi avete lo stesso obiettivo? Bravo, è esattamente lo stesso obiettivo. Noi abbiamo i nostri clienti più significativi della distribuzione americana che vengono nei nostri negozi, parlo di quelli americani in questo momento, potrei parlare anche di quelli di Parigi, che vengono a vedere, a imparare, chiedono che facciamo corsi ai banconieri che devono aspettare, presentare i prodotti, eccetera, e vengono a vedere da noi come si fa. E questo riguarda i salumi, i formaggi, ma anche la cucina in senso lato. Di conseguenza questo è il motivo per cui diventa effettivamente un negozio bandiera, ma che serve poi per distribuire i prodotti nei canali diversi. Ecco, Madison Avenue, io me la ricordo, molti anni fa c'erano soprattutto i tradizionali coffee shop americani, dove fanno le uova fritte, ti danno il caffè lungo all'americana, ci sono quei sedili rotondi. Ecco, adesso da voi ho visto poltroncine in pelle, e poco più su, lo dicevo, c'è Saint-Ambroise, diciamo un ristorante, un caffè molto all'italiana. Poco più sotto da dove siete voi c'è Nespresso, che è vero che è svizzera come proprietà, però si è appropriata di una delle nostre bandiere, l'Espresso, e quindi ha creato un bar caffè. Ecco, la colpisce che ci sia questo progressivo avanzamento della cultura alimentare italiana su Madison Avenue? Non la trovo una cosa buffa? No, non è buffa, è una cosa molto seria, io credo, nel senso che se non si parte dalla vetrina più significativa che abbiamo negli Stati Uniti, cioè il paese che traccia le mode nel mondo, è chiaro, dobbiamo seguire quella strada lì. Quindi io sono molto orgoglioso e contento. Tenga presente che fino a qualche tempo fa trovare dei negozi, degli immobili che dessero l'autorizzazione a far cucina in Madison Avenue era veramente complicato. Adesso invece è più semplice, perché il negozio alimentare, soprattutto quando è italiano, noi abbiamo un concetto di tradizione, cioè la salumeria con ristorante, quindi come si faceva in Italia tanti anni fa. E questo attrae persone, attrae gente, e il motivo per cui quindi oggi si possono fare queste cose è per questa ragione, e Madison è la vetrina del mondo. Ecco, voi siete un po' in piccolo quello che è Italy alla 23, darete molto fastidio, io credo, a Saint-Ambroise, che ha 6 isolati più avanti. C'è spazio per tutti? Secondo me c'è spazio per tutti. East Side è una zona talmente ben sistemata da un punto di vista di qualità e di quantità delle persone, per cui c'è spazio per tutti. Rosy, parliamo del design, perché insomma ha ingaggiato niente meno che Dante Ferretti per fare questo ristorante. Poi ho visto così degli sfondi d'antica Roma. Qual è l'idea? L'idea è quella di rappresentare l'italianità cinematografica anche, ma non solo, e credo che Roma, in questo caso, così come nell'altro negozio, la nave che portava gli immigranti, siano due belle rappresentazioni dell'Italia, l'altra Italia, quella dell'altro negozio in Amsterdam, e l'Italia che arrivava a New York. Adesso rappresentiamo un'Italia cinematografica che è l'antica Roma, quindi noi abbiamo il rosso pompeiano che domina, abbiamo gli affreschi, abbiamo le sculture. Credo che sia una rappresentazione teatralizzata, perché non è soltanto cibo Italia, ma è cultura. Cultura non soltanto del cibo, ma cultura della storia italiana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scrivetemi su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dopo vari ritardi, cambi di nome, il nuovo disco di Azalea Banks è finalmente uscito. Fantasia, alla fine, può essere scaricato da internet attraverso un link sull'account Twitter della rapper di New York, di Azalea Banks. 212, 212, il prefisso della nostra città. Hey, I can be the answer.